2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 2 e 3 gennaio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Questa è la prima puntata del nuovo anno, naturalmente anche da parte nostra gli auguri, i migliori auguri per un ottimo 2010. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast. Trovate tutte le informazioni online sul sito internet della nostra radio, quindi www.radio24.it. E naturalmente, come spesso vi ricordo, il consiglio è quello di abbonarvi gratuitamente al sistema podcast. In questo modo potete aggiornare automaticamente settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Ci sono tanti sistemi, tanti software per utilizzare il podcast. Molte notizie sono uscite nelle ultime settimane, alcune interessanti e soprattutto alcune riguardano i prossimi giorni, perché nei prossimi giorni ci saranno alcuni annunci importanti negli Stati Uniti. Le feste oramai con questo weekend se ne vanno e quindi si riprende a lavorare alla grande a partire dalle prossime ore, e già da martedì Google farà un annuncio importante, poi inizierà a Las Vegas il Consumer Electronics Show con molti annunci, e alla fine del mese la Apple, almeno queste sono le voci di corridoio, dovrebbe fare un annuncio importante. All'inizio della settimana, di questa settimana, pochi giorni fa, quindi, l'Istat ha pubblicato un'indagine intitolata Cittadini e nuove tecnologie. Purtroppo non ci sono grandi novità rispetto alle indagini dei mesi precedenti, perché l'Italia rimane un paese arretrato per quanto riguarda la diffusione di computer e internet. 96 famiglie su 100 possiedono la TV, 90 su 100 il cellulare, ma quando nella lista arriviamo alla parola personal computer, la percentuale, pensate, crolla al 54%, quindi più o meno la metà delle famiglie ha un computer. Il dato è positivo, almeno più della metà ha un computer. Per quanto riguarda l'accesso ad internet invece siamo meno della metà, siamo al 47%. Tra questi, quelli che hanno un collegamento in banda larga, ADSL o in altra tecnologia, sono il 34,5%. Questo naturalmente, lo abbiamo detto più volte, è un problema, perché buona parte della popolazione italiana non sta partecipando a quella che viene definita la più grande rivoluzione, almeno per dimensioni, ma non solo per dimensioni, che l'umanità abbia mai vissuto. Come abbiamo detto più volte, il problema è duplice. Uno è culturale, perché molti che potrebbero comunque acquistare un computer magari hanno la disponibilità economica, o potrebbero attivare un abbonamento per accedere ad internet perché risiedono in una zona dove internet c'è, non lo fanno perché non ne capiscono l'utilità e anche i benefici. C'è poi un problema di sistema: mancano i servizi sia nel settore privato che soprattutto in quello pubblico. Non abbiamo servizi del livello di altri paesi e in alcune zone manca l'infrastruttura. Sui servizi c'è molto da fare. Purtroppo, se seguite 2024, a volte vengono annunciate alcune novità a livello internazionale, vengono annunciati servizi o anche diffusione di prodotti a livello internazionale, e il nostro paese non sempre è nella lista dei primi che ricevono questi beni o questi servizi. Sul fronte servizi, in modo particolare, la pubblica amministrazione può avere un ruolo di spinta, e da questo punto di vista i progetti annunciati dal governo vanno nella giusta direzione, poi vedremo come verranno realizzati. Negativo, fortemente negativo, è invece il giudizio degli esperti, anche del mondo dell'industria, sulla mancanza di una strategia per la diffusione dell'infrastruttura di rete, quindi della fibra ottica in modo particolare, ma non solo. Mancano ancora i soldi per tappare, potremmo dire così, i buchi di rete che oggi ci sono, ma soprattutto manca un progetto per una rete di prossima generazione, e su questo non torniamo perché già più volte ne abbiamo parlato, ma sicuramente è un tema che ci accompagnerà per tutto il 2010. Una notizia interessante che arriva dalla Gran Bretagna, dove, secondo i conti fatti dal Daily Telegraph, nel corso del 2009 sono stati spesi più soldi per videogiochi rispetto al totale delle sterline spese per il cinema, compresi sia i film in DVD sia quelli visti al cinema, proprio nelle sale cinematografiche. Il quotidiano ha fatto solo una somma di dati pubblicati dalle associazioni che rappresentano i due business. Si tratta di 2,8 miliardi di dollari spesi per i videogame e meno di 2, 1,93, poco meno quindi di 2 miliardi per i film. Non è la prima volta che la Gran Bretagna ci sorprende per la vivacità dei mercati più moderni, soprattutto quelli digitali. Nell'autunno dello scorso anno, ricorderete, il totale della pubblicità venduta su internet ha superato quella della TV, e questo è un dato che segna sicuramente un trend indicativo per tutto il mondo, per tutta Europa. Ma potrà la pubblicità continuare a sostenere tutta o quasi tutta l'industria che sta nascendo e crescendo su internet? Questa è stata una delle grandi domande del 2009 e sarà ancora uno degli enigmi dell'anno che è appena iniziato. Sono soprattutto gli editori più preoccupati, in particolare nel mondo anglosassone, si è alla ricerca di un modo alternativo per monetizzare i contenuti che vengono messi in rete. Finora però nessuno ha fatto la prima mossa e tutti sono in attesa. Forse sarà Murdoch, attraverso alcune delle sue testate online, a fare un primo test nel corso della prima parte dell'anno. Vedremo, lo seguiremo sicuramente da vicino. È indubbio quindi che ancora oggi e per molto tempo la principale moneta della rete è la pubblicità. Allora, di questo vogliamo parlare in questa prima parte del nostro programma. Saluto Vittorio Lorenzoni, che è Country Manager per l'Italia di Trade Doubler, uno dei principali network per la distribuzione della pubblicità in rete. Benvenuto a 2024. Buongiorno a voi. Voi vi occupate di pubblicità, di una pubblicità particolare, perché questo è un tema che vogliamo approfondire per capire quali sono i modi per fare pubblicità su internet. Beh, diciamo che uno dei più utilizzati, uno di quelli che fa molto successo, è fare pubblicità sui motori di ricerca. Io compro delle parole chiave, quando un navigatore va su un motore di ricerca e cerca quella parola, se io ho comprato uno spazio pubblicitario correlato a quella parola, apparirà la mia pubblicità. Ci sono poi tanti altri modi. Beh, anche la classica pubblicità del banner funziona ancora, giusto? Assolutamente sì, il banner continua ad essere un mezzo pubblicitario interessante su internet e continuerà ad esserlo a lungo sicuramente. Voi però fate avete ideato un sistema un po' particolare che chiamate Performance Based Digital Market. Lo traduciamo e lo spieghiamo. Sì, certo. Diciamo che i servizi forniti da TradeDoubler si basano su una piattaforma tecnologica che è in grado di tracciare il comportamento online da parte degli utenti. Sulla base delle performance realizzate, noi siamo remunerati. In sostanza, il nostro marketplace, all'interno del quale gli utenti, i nostri clienti acquistano gli spazi messi a disposizione dai nostri editori, i nostri publisher, che sono i nostri fornitori. E sulla base del fatto che gli utenti online acquistino un prodotto, si registrino in un database, si registrino per esempio un test drive per un'auto, per una casa automobilistica, oppure facciano semplicemente visitino un sito del nostro investitore, i nostri editori sono remunerati. E noi ci tratteniamo una piccola parte, una piccola percentuale della remunerazione dell'editore. Questo è un po' in sostanza il nostro modello di business. Quindi diciamo che questo modello si avvicina molto di più a quello del motore di ricerca piuttosto che quello del banner. Cioè il banner, se io metto un banner pubblicitario che dice clicca qua e vieni a visitare il sito di Enrico Pagliarini, già il fatto che io abbia deciso di mettere questo banner fa in modo che io paghi l'editore, giusto? Assolutamente, assolutamente. Nel vostro caso invece deve succedere qualche cosa in più. Sì, ecco, diciamo che il nostro è un modello che va verso nella direzione dei motori di ricerca, però contrariamente ai motori di ricerca che sono remunerati per il semplice click, sì. Quando l'utente clicca, io cerco computer portatili e su Google ovviamente, principalmente, sì. E dopodiché clicco sulla pubblicità o sul text link della Dell, per esempio, per acquistare un computer. Sì. In quel momento io se sono la Dell devo pagare Google. Se invece sono con TradeDoubler è remunerata solamente se a fronte di quel click, magari anche dopo una settimana, l'utente torna sul sito di Dell e acquista un PC o un qualsiasi PC. Quindi in base alla performance. Alla performance. Di quello, esatto, che succede, diciamo così. Esattamente. Dunque, se io sono un sito internet di informazione, sono un vostro cliente? No, saresti un nostro fornitore. Sì, noi, perché io vi metto a disposizione il mio spazio al vostro network. Assolutamente, noi abbiamo circa 20.000 editori attivi in Italia e la mia società, la TradeDoubler, presente in 18 paesi, ha circa 200.000 editori attivi in Europa. Voi non siete italiani? La sede di TradeDoubler è a Stoccolma, TradeDoubler è una società quotata in borsa, la borsa di Stoccolma. Si dice spesso che internet sia un ambiente, una piattaforma, un mezzo di comunicazione all'interno del quale possono fare business anche i piccoli commercianti, perché di fatto, diciamo, i vostri clienti sono quelli che fanno prevalentemente commercio elettronico, giusto? Sì, beh, il commercio elettronico è una componente significativa, non è tutto, perché come dicevo prima, per esempio, abbiamo tutte le case automobilistiche, i nostri clienti, perché sono interessati a realizzare delle liste di utenti interessati a fare il test drive della nuova Fiat, della nuova Peugeot, insomma delle varie, sì, delle varie case automobilistiche. Quindi non è solo e-commerce. Certo, l'e-commerce è una parte preponderante, direi un 60-70% del nostro fatturato. Ecco, ed è vero che internet ha abbassato la soglia di ingresso per chi vuole fare commercio elettronico, in modo particolare per fare pubblicità, per farsi conoscere, perché è chiaro che io prima di tutto devo essere un commerciante, vendere qualche cosa, fare una piattaforma di e-commerce, ma poi il vero problema della rete è farsi conoscere, perché non basta essere in internet. Assolutamente, ma la barriera si è assolutamente abbassata grandemente. Cito un esempio che forse è significativo: il secondo operatore italiano dell'e-commerce nel mondo dell'editoria, quindi un mondo molto simile al mondo del Sole 24 Ore, è un ragazzo di Padova. Il suo sito si chiama Webster e ha volumi, quest'anno spedirà circa 1 milione di volumi, ed è assolutamente sconosciuto nel mondo offline, perché non ha nessuna presenza nel mondo offline, e quindi, a parte, diciamo, i grandi editori, i grandi gruppi industriali alle spalle, ovviamente, che sono ben conosciuti, questo è un straordinario caso di successo di un ragazzo che con grande testardaggine ha lasciato la professione del commercialista in cui non credeva e ha cominciato a realizzare la sua piattaforma, e passo dopo passo ha messo in piedi una realtà molto significativa. Ripeto, spedire 1 milione di libri, non so quante librerie in Italia vendono in un anno 1 milione di libri, credo molto poche. Sì, molto poche, molte poche. Giusto per capire, barriere all'ingresso, questo vuol dire, dicevamo, barriere all'ingresso molto basse, questo vuol dire che si parte da investimenti di poche centinaia o poche migliaia di euro? Beh, l'investimento di solito è il computer, quindi parliamo di qualche centinaio di euro. Usare il cervello. Per fare pubblicità? Beh, diciamo che molti dei nostri editori, che sono dei broker di pubblicità, quindi comprano e vendono pubblicità, è l'investimento iniziale per alcuni di questi ragazzi. Sono ragazzi giovanissimi, sono, ripeto, il computer è la linea ADSL per collegarsi a ADSL alla casa. E usare il cervello, ecco, il cervello è la vera differenziale. Questo è sempre vero, ma per entrare, diciamo, nel vostro network, quindi per fare pubblicità, per farsi conoscere, devo investire poche centinaia di euro per essere efficace, perché poi... Ma bisogna sempre distinguere di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un produttore di automobili, di un produttore di bicicletta, di un piccolo esercente che vuole farsi conoscere. Io credo che sia possibile investire cifre molto molto contenute, proprio perché, per esempio, ultimamente mi parlavano di un'azienda che produce tubi rivestiti non so quale materiale, con un materiale particolare. Ecco, un'azienda B2B, ovviamente, che non è attiva con i grandi volumi, ma che è interessata a generare lead estremamente specifiche di aziende che sono interessate a comprare quei prodotti. Cioè lead significa lead, delle liste di clienti potenziali. Un cliente potenziale, sì, che sì, vuole avere maggiori informazioni su quel tipo di rivestimento del tubo. Perdona, non so esattamente tecnicamente di cosa si tratti. E quindi è disposto a pagare anche alcune centinaia di euro per un profilo, per un utente, diciamo, profilato, come dicono loro. Quindi si possono fare con investimenti limitati, usando, ripeto, il cervello, usando la conoscenza, il know-how, fare delle operazioni molto interessanti. Ci sono dei ragazzi molto giovani con noi che guadagnano, o perlomeno più precisamente portano a casa delle commissioni molto molto interessanti con investimenti veramente molto piccoli. Quindi, diciamo, già poche centinaia di euro, forse qualche migliaio di euro. Diciamo che, escluso il PC e la linea, diciamo, ADSL, sì, no, diciamo, solo per fare pubblicità, diciamo. Per fare pubblicità possiamo parlare di qualche migliaio di euro sicuramente, cifre molto molto contenute. Si dice spesso che la pubblicità sia un po' il motore di tutta la rete internet, però lei, Lorenzoni, dice che siamo solo agli inizi, cioè stiamo vedendo un mercato che quasi non esiste. Ma sicuramente siamo agli inizi, prima di tutto perché in Italia abbiamo una popolazione internet che, confrontata per esempio con l'Inghilterra, che ha una popolazione globale di poco superiore, credo, o comunque paragonabile a quella italiana, ha un'utenza internet che è esattamente il doppio della nostra, quindi ci sono spazi enormi di crescita, da una parte. Dall'altra, i volumi ufficialmente riconosciuti di investimenti pubblicitari su internet sono, secondo il mio modesto avviso, largamente sottovalutati perché le grandi centrali media hanno accordi commerciali con circa 250 operatori. Di questi 250, solo 25 sono censiti dalle fonti ufficiali Operatori internet. Operatori internet. Quindi vuol dire che 225 signori, per quanto possono essere piccoli, magari sproporzionati rispetto ai grandi gruppi editoriali italiani, ma certamente pensare che 225 non valgono almeno tanto quanto gli altri 25 mi sembra un po' arrogante. Se poi pensiamo che gli investimenti in buona parte fatti in Italia possono arrivare dall'estero, gli investimenti attraverso i grandi motori di ricerca per esempio possono essere fatti dai grandi keyword buyer, e i grandi keyword buyer non sono in Italia, ahimè, sono in Francia, sono in Germania, sono in Inghilterra. I keyword buyer sono quelli che comprano parole chiave sui grandi motori di ricerca, perché diciamo che la pubblicità è un po' come i mercati finanziari, a volte uno compra grandi volumi di qualche cosa che poi non sa dove finisce o comunque dove va a finire. Questo è quello che noi, i nostri fornitori sono esattamente questi, sono signori che grandi operatori sono in Israele per esempio, che sono persone che usano molto il cervello in maniera molto, molto fina, e acquistano enormi quantità di spazi in tutto il mondo e poi li rivendono al dettaglio. Quindi funziona, certo che funziona. In questo caso però gli investimenti sono di un altro ordine di grandezza. Certo. Cioè, stiamo parlando di grandi operatori che investono decine e decine di migliaia di euro ogni mese. Però, insomma, è chiaro che Ci sono dei grandi intermediari di parole chiave sulla rete. Assolutamente. E i grandi keyword buyer, ripeto, potrei citare un paio di esempi italiani, ma i veri grandi operatori che sono nostri fornitori sono inglesi e lavorano per tutte le grandi aziende del mondo, quindi lavorano anche per Fiat, per Alitalia, adesso per citare, non so se lo fanno esattamente gli inglesi, ma sicuramente grandi keyword buyer lavorano anche per grandi aziende italiane. Senta Lorenzo, è tutto ciò per un piccolo, chiaro che per le grandi aziende hanno esperti, uffici che si occupano di questo, però per un piccolo è facile capire qual è l'efficacia di tutto ciò che accade su internet? Perché se noi ci riferiamo al vecchio mondo, io compro qualche cartellone pubblicitario quando con l'automobile passo per la strada, lo vedo e sono insomma soddisfatto del mio investimento. Poi bisogna vedere se quell'investimento è efficace sì o no. Oppure se compro pubblicità alla radio, accendo la radio, l'ascolto. Su internet le cose sono un po' più complicate, proprio perché le parole chiave si infilano ovunque, la pubblicità si infila ovunque. Quanto è facile o quanto è difficile capirne l'efficacia? Beh, il vantaggio vero di internet è che è possibile misurare praticamente tutto. Quindi posso ricostruire esattamente quello che è accaduto con tutti i miei spazi pubblicitari. Però bisogna sapere cosa farne poi di questi, per ottimizzarli, per poterli sfruttare meglio, per evitare gli investimenti diciamo a vuoto. È evidente che se confrontiamo questo con altri mezzi, la carta stampata, la televisione, la radio, è evidente che internet ha, proprio perché si basa su uno strumento multimediale altamente tecnologico come il computer, permette tutta una serie di valutazioni che altrimenti non è possibile fare. Ma bisogna essere degli esperti? Certamente, voglio dire, non si può pensare che l'uomo della strada, l'uomo qualunque lo possa fare, ma certamente, ripeto, usando il cervello con investimenti puramente dedicati alla valorizzazione di se stessi, è possibile fare cose abbastanza rapidamente. La sensazione che io ho, parlando con tutti gli operatori del mercato, è che internet effettivamente pubblicitariamente parlando offre delle straordinarie possibilità, ma non sia proprio così semplice. No, semplice non lo è di sicuro, però ripeto, non è che uno deve studiare 6 anni alla Bocconi per poter avere questo tipo di informazioni. Ci sono molti ragazzi che lavorano con noi, molto giovani, che hanno cominciato un po' per gioco. C'è un famoso sito, lo Scuola Zoo, che è quel sito che in qualche maniera è un epigono di YouTube, che è nato un po' per gioco da parte dei ragazzi liceali e adesso hanno sviluppato molto. Quindi tante volte le idee giuste sono magari idee banali, semplicemente realizzate con un po' di sale in zucca, come dico io. Se le cose, come del resto insomma sappiamo, sono così interessanti, anche per i tassi di crescita che questo mondo ha ancora oggi, perché parliamo di tassi di crescita a 2 cifre, giusto? Beh, diciamo che quest'anno... A parte quest'anno forse. Sì, fino all'anno scorso sicuramente 2 cifre è stato di crescita. Quest'anno certamente la crisi economica mondiale ha dato una bella frenata ai tassi di crescita, anche se il mezzo internet è l'unico che sta continuando a crescere anche nel 2009. Ecco, dicevo, se è vero, come del resto lo è, che i tassi di crescita sono così interessanti, tutto ciò si può vedere anche sotto il profilo occupazionale? Assolutamente sì, e credo che qui in Italia abbiamo perso tante buone opportunità per fare del mondo internet un industry in crescita anche a livello occupazionale. La penetrazione della banda larga è molto bassa, contrariamente a quello che accade in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, quindi creando meno opportunità di business. E non c'è stato nessun aiuto ai piccoli, all'imprenditoria giovanile o ai piccoli imprenditori che già erano partiti, cosa che invece è accaduta in Spagna. Per cui quello che io registro quotidianamente è operatori che dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra arrivano in Italia, e pochissimi, per non dire quasi nessuno, che esce verso l'estero. E qui gli investimenti avrebbero potuto essere veramente limitati, creando magari delle sale dove ci siano dei computer a disposizione dei giovani, con magari con un minimo di servizi comuni condivisi, magari forniti dallo Stato, sì, come è accaduto in altre zone, o delle università. E invece questo in Italia non si è registrato. Questo vuol dire che voi non trovate anche il personale? Ah no, io abbiamo delle posizioni aperte e facciamo molta fatica a ricoprire. E dico una banalità, ma l'anno scorso, avendo delle posizioni aperte, dalla casa madre mi ha detto: prendi chi vuoi, ma purché parli inglese. Cioè, stiamo parlando che i ragazzi che noi vogliamo assumere non parlano neppure inglese, ma neanche quel minimo per potersi, diciamo, esprimere. Sì, che questo va al di là, insomma, delle competenze tecniche. No, no, stiamo proprio dei basic, non parlano inglese. E le università non ci aiutano. E, diciamo, non abbiamo una grande rispondenza da parte delle università nell'aiutarci a trovare i profili giusti, anche se noi bastano veramente competenze minime. Poi li prepariamo noi, li istruiamo noi. Beh, in bocca al lupo. Grazie, ce n'è bisogno. E anche auguri per un buon anno, buone grazie. Feste. Grazie a Vittorio Lorenzoni per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie anche a voi. Questa è la prima puntata dell'anno di 2024, naturalmente gli auguri anche da parte nostra. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che il nostro programma va in onda normalmente il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Questa è una versione speciale, visto che questo è ancora un weekend di vacanza, e tra l'altro anche la prossima settimana sarà una settimana ancora di vacanza per molti italiani. Le cose sono diverse negli Stati Uniti, dove si riprende a lavorare dopo la pausa del Capodanno, e ci sono alcuni annunci importanti già dai prossimi giorni. Ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, ve lo ricorderò alla fine. Qualche settimana fa Google ha fornito qualche dettaglio sul sistema operativo che entro la fine dell'anno, entro la fine del 2010, animerà i computer. Computer particolari, perché saranno dei netbook, quindi computer piccoli pensati per collegarsi alla rete a basso costo. E un annuncio che forse ha stupito alcuni: Google ha detto che non avranno hard disk, ma avranno solamente dischi allo stato solido, memorie allo stato solido. Beh, naturalmente questo va rientra nella logica di Google, che pensa alla rete come ad un grande serbatoio dove i dati vanno salvati, come dicono gli americani, in the cloud, nella nuvola della rete. E quindi non avere l'hard disk a bordo rientra in questa logica. Ci sarà solamente un disco allo stato solido, ma si tratta di altra tecnologia che servirà per mantenere in vita i pochi dati che serviranno a quel computer. Beh, anche grazie a questo annuncio, questa tecnologia dei dischi, delle memorie allo stato solido, nel 2010 dovrebbe subire un'accelerata. Parliamo della stessa tecnologia di memorizzazione che viene utilizzata nelle chiavette USB, dei telefonini, nei lettori MP3, quindi non di una cosa nuova, ma sicuramente lo sviluppo sui computer, viste le dimensioni e anche viste le prestazioni diverse che devono avere queste memorie rispetto alla chiavetta USB o ai telefonini, beh, in questo caso stiamo parlando di una tecnologia molto più evoluta, quindi con uno sviluppo molto più lento e attualmente ancora costi molto elevati. Ne vogliamo parlare oggi con Vittorio Margoni, che è country manager per l'Italia di OCZ, un'azienda americana, una delle prime che ha investito in questa tecnologia e che è molto ottimista sullo sviluppo dei prossimi mesi. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Stiamo parlando di fatto di memorie, perché proprio da qui vogliamo partire. Stiamo parlando e parleremo di memorie, giusto? Sì, i dischi allo stato solido, o abbreviati in inglese SSD, che si contrappongono ai dischi rigidi attuali, che vengono abbreviati con HDD. Sì, gli hard disk classici. Gli hard disk classici, computer, con tecnologia paramagnetica, sono sostanzialmente delle memorie di massa, e quindi servono per immagazzinare i nostri file musicali, le nostre foto e quant'altro, e per questo vengono definiti appunto hard disk. Il fattore di forma è identico, sono disponibili nel classico formato da 2,5 pollici per i notebook o nel formato da 3,5 per i computer normali, desktop tradizionali. Sì, parliamo di un fattore di forma che molti, cioè di una forma che molti nostri ascoltatori non vedono perché sta dentro al computer. Assolutamente, assolutamente. La cosa interessante di questa nuova tecnologia, che diciamo non è nuovissima, perché stiamo comunque parlando di una tecnologia che è simile a quella delle memorie RAM che esistono da quando esistono i computer. Sì, diciamo che i dischi allo stato solido utilizzano delle celle di memoria in grado di mantenere l'informazione anche in assenza di alimentazione. Noi quando spegniamo il nostro computer, se abbiamo, ipotesi, una fotografia aperta, quando lo spegniamo, quella fotografia che risiede in memoria, non è quando accendiamo il PC ci ritroviamo quella foto. Sì, nella RAM scompare, rimane solo sull'hard disk. Tutto, esatto. Ecco, dicevo, la cosa interessante è che nei prossimi mesi vedremo sempre più spesso queste tecnologie nei nostri computer, perché offrono una serie di vantaggi. Giusto per far capire chi ci sta ascoltando, stiamo parlando di dischi allo stato solido simili in tutto e per tutto alle chiavette USB che tutti ormai conoscono. Sì, diciamo che la tecnologia che sta alla base è appunto quella delle celle di memoria che è in grado di immagazzinare il dato anche in assenza di alimentazione. Quindi le chiavette USB. Delle chiavette USB. Che, Però le stesse celle di memoria vengono utilizzate nei dischi per creare capacità che vanno dai 30 ai 250 GB, capacità ridotte per chi è abituato a sentire un disco normale che può arrivare attualmente fino ai 2 TB. Noi OCZ Technology ha un disco che arriva fino a 1 TB, però il costo di cui ne parleremo dopo è un po' diverso. Parliamo dopo anche dei costi, perché questi sono i costi sono attualmente il problema di questa tecnologia. Però la tecnologia è interessante per una serie di motivi. Allora, vediamo subito quali sono i vantaggi di un disco allo stato solido, quindi che utilizza una tecnologia simile, abbiamo detto, alla chiavetta USB, che però è un po' più grande, quindi può essere sostitutiva dell'hard disk di un computer. Assolutamente. Il vantaggio principale sono i tempi d'accesso ridottissimi, dell'ordine di inferiori a 0,1 millisecondi. Cioè, cosa si traduce per l'utente che utilizza questa tecnologia? Che i tempi di avvio della macchina sono ridottissimi. Del computer, sì. I tempi di avvio del computer sono ridottissimi. Il tempo necessario a lanciare un'applicazione è ridottissimo, perché la lettura avviene in tempi appunto istantaneamente. Sì. Quindi diciamo che su alcuni computer oramai, quando il computer è un po' vecchiotto, ma soprattutto ha molti dati installati, quindi molti programmi, il computer è un po' lento. E poi magari si sente anche l'hard disk che si muove, che lavora, eccetera. In questo caso quasi istantaneo. Accesso quasi istantaneo ai dati. Il vantaggio, uno degli altri vantaggi, è che non ci sono parti in movimento, quindi non c'è nessun tipo di rumore, l'unità non emette nessun tipo di rumore, e soprattutto, non essendoci parti in movimento, ha una resistenza molto superiore agli urti. Poi, come le tecnologie di memoria flash che vengono utilizzate nei dischi allo stato solido, hanno un consumo molto ridotto. Quindi questo ci permette, installando un disco allo stato solido all'interno del nostro portatile, di avere una durata delle batterie anche superiore. Ecco, questo è interessante, perché da un po' di tempo, ormai da forse un paio, 2, 3, 4 anni, stiamo dicendo che poiché per le batterie l'industria non è in grado attualmente, e almeno da quello che dicono i tecnici non sarà in grado nei prossimi 2-3 anni, di trovare alcuna soluzione interessante per aumentare di molto, non di poco, abbiamo visto degli sviluppi in questi anni, ma di molto la durata delle batterie, si sta lavorando sul consumo, cioè si sta cercando di far consumare meno energia elettrica al computer. Chi produce processori ha creato processori che consumano meno. Un'altra soluzione potrebbe, anzi sicuramente sarà questa. Oggi però troviamo ancora pochi computer che hanno installato già dalla fabbrica un hard disk allo stato solido. Sì, e questo è un problema di costi, come dicevamo prima, perché la tecnologia è assolutamente pronta, diciamo così, pronta, costosa. Però ovviamente sono soluzioni che hanno un costo al gigabyte molto elevato. Quindi traducendo in appunto in euro, diciamo, costi medi, poi costi, costi ogni medie, produttore assolutamente, è proprio offerta. Però diciamo mediamente che il costo di un'unità da 30 gigabyte, che è il taglio di ingresso minimo, diciamo l'unità entry level, si aggira sui 100 euro, qualcosa in più. Con 100 euro compro un hard disk grande quanto? Con 100 euro compro un hard disk nello stesso fattore di forma, quindi un hard disk per portatili, diciamo che lo compro da 500 GB e magari mi rimangono in tasca anche una ventina di euro, ecco. Però, ecco, però dicevo, sicuramente per molti professionisti o comunque per alcuni utilizzi, la soluzione potrebbe essere quella di adottare un hard disk, un drive allo stato solido, che quindi ha tutti i vantaggi che abbiamo detto poco fa, piccolo, per far partire il computer più velocemente, usare i programmi in modo più veloce, tenendo i dati, quindi quelli che magari occupano molto più spazio, su un hard disk esterno, comunque su un'unità esterna, o addirittura, come capita in alcuni casi, in rete. Sì, assolutamente, assolutamente. E diciamo che questa configurazione, che potremmo definire ibrida, è una configurazione che è stata anche studiata per diciamo soluzioni cluster professionali e sistemi di high performance computing, quindi per calcolo distribuito, applicazioni che necessitano di una grandissima velocità di trasferimento dati. Questa soluzione di avere un disco allo stato solido su cui vengono immagazzinati le applicazioni e il primo set di dati, e avere altre unità con tecnologia paramagnetica tradizionale per immagazzinare i dati che non servono immediatamente, ha portato risultati prestazionali, giusto per parlare anche un altro vantaggio degli SSD, sono le prestazioni, di un ordine di grandezza 13 rispetto all'utilizzo di un disco con tecnologia quindi questi grandi computer sono veloci 13 volte, 13 di più, volte di più, okay. E questa è una velocità che anche l'utente finale può sperimentare di persona nel caso avesse un'unità allo stato solido installata nel proprio PC. Sì. Senti, quel disco da un tera quanto costa? Giusto per capire. Il disco da un tera visto che un disco da un tera tradizionale costa 170 euro. 200 euro massimo. Sì, dai, esageriamo, sì, 200 sì, sì. euro. Beh, diciamo che un fattore 20 sui 4.000 euro. Si quindi porta questo, a casa. Questo attualmente è il problema più grande, questo è assolutamente il problema più grande all'adozione di questa, all'adozione di massa di questa, certo, tecnologia. Stiamo parlando ancora di una tecnologia abbastanza nuova. Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, però voi sostenete che nel corso del 2010 vedremo riduzioni drastiche di prezzo e sicuramente vedremo sempre più spesso offerte all'interno della gamma dei computer che possiamo comprare in negozio oppure online, cioè offerte con anche la soluzione allo stato solido. Assolutamente, assolutamente. Previsioni per l'anno? Previsioni per l'anno? Beh, il 2010 dovrebbe essere l'anno, non l'anno del boom, perché i costi ovviamente non scenderanno in maniera così esponenziale. Però i dati di mercato prevedono anche un incremento delle vendite dell'ordine del 500%. Senti, oggi se uno vuole comprare un computer con questa tecnologia a bordo, lo trova oppure no? I sistemi notebook sì, si trovano. Pochi si trovano, solitamente la fascia di prezzo è elevata, nel senso a partire diciamo dai 1600 euro, sì. Per intenderci. Vabbè, sono anche computer un po' più performanti rispetto a quelli da 300 euro. Sì, assolutamente. Assolutamente. Non è che cambiano perché c'è la solid state. Cioè sono computer che o hanno diciamo caratteristiche appunto di leggerezza piuttosto resistenza, altro. E poi ci sono alcuni piccoli, chiamiamoli piccoli, ma in realtà non neanche tanto, integratori italiani che propongono delle soluzioni desktop, anche desktop, con un'unità allo stato solido e, come dicevamo prima, in configurazione ibrida, cioè l'unità allo stato solido, che può essere da 60 o da 120 GB, viene utilizzata per i programmi e il sistema operativo, e a corredo viene fornita un'unità con tecnologia tradizionale da 500, 1 tera, dove ci immagazzino i dati. Esatto, dove posso mettere tutti i miei dati. Qualche idea sui prezzi? Se io volessi comprare un disco allo stato solido, ribadiamo che non sarebbe corretto dire disco allo stato solido perché di fatto non c'è lì un disco. Beh, si tratta di una serie di memorie, punto. Sì, è una visione diversa, perché come unità di memorizzazione di massa noi possiamo chiamarla a tutti gli effetti un disco, sì, perché effettivamente è un disco, non è, tra virgolette, a piattelli, non ci sono i piattelli. Cioè, i dischi veri, esatto, e propri, però. Ci sono le celle di memoria. Se, qualche prezzo? Qualche prezzo, beh, come dicevamo prima, in un intorno dei 100 euro ci sono le unità da 30 gigabyte. Sì. Più o meno il prezzo raddoppia con la capacità, quindi nell'ordine dei 200 euro spostato verso l'alto un'unità da 60 gigabyte, sui 400-500 euro un'unità da 120 e sull'ordine dei 900 euro, 800-900 euro un'unità da 250 gigabyte. Primo crollo dei prezzi quest'anno. Primo crollo dei prezzi. Marzo? Forse agosto? Marzo sarà un po' presto, però per settembre, settembre sicuramente ne vedremo una, diciamo, un aggiornamento del listino verso il basso. Un aggiornamento del listino verso il basso, sì, anche perché essendo legato alle tecnologie di celle di memoria, con la transizione dei processi produttivi a scale inferiori, il materiale finito, la cella finita, costerà di meno, quindi noi potremo avere a parità di prezzo tagli con capacità superiore oppure a parità di capacità un prezzo inferiore. Bene, allora vedremo quello che succederà quest'anno. Comunque già oggi queste sono soluzioni estremamente interessanti per tutti i vantaggi che vi abbiamo ricordato. Grazie a Vittorio Margoni, Country Manager per l'Italia di OCZ Technology. A presto, buon lavoro. Grazie mille e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Adesso cambiamo argomento con una notizia che ci arriva dalla Russia. Mosca continua e anzi accelera l'aggiornamento del proprio sistema di posizionamento satellitare. Il GPS russo si chiama GLONASS e nel corso del 2010 la costellazione satellitare si arricchirà di altri 9 satelliti che gradualmente ne sostituiranno altrettanti. Quindi si tratta di satelliti che vengono mandati in orbita per sostituire i più vecchi. GLONASS, che sta per Global Navigation Satellite System, è un sistema satellitare di posizionamento globale realizzato per fare concorrenza o comunque per far sì che la Russia possa essere indipendente dal GPS americano, che, lo ricordiamo, è un sistema militare, quindi l'esercito americano potrebbe in ogni momento criptare i segnali o degradare i segnali, rendendo meno preciso il posizionamento di un navigatore come quelli che vengono utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo. Pensate a quanti telefonini hanno il GPS integrato. Diciamo che questo è un evento molto remoto, cioè quello che i militari americani degradino il segnale o addirittura lo blocchino, ma è un evento comunque possibile, essendo questi satelliti militari. Il primo satellite del GLONASS russo è stato lanciato da Baikonur il 12 ottobre 1982 e la costellazione è stata completata con 24 satelliti nel 1997. Anche gli Stati Uniti naturalmente continuano ad aggiornare il proprio sistema con nuovi satelliti che vengono lanciati ogni anno per sostituire quelli più vecchi che non hanno più il carburante per sostenere l'orbita attorno alla Terra, ma anche perché vengono inviati satelliti tecnologicamente più avanzati. Come molti di voi sapranno, anche l'Europa è alla ricerca di una sorta di indipendenza da questo punto di vista e ha iniziato la costruzione di un sistema simile chiamato Galileo, che sarà operativo dal 2013. Attualmente sono presenti due satelliti che non faranno parte della costellazione del Galileo, ma sono satelliti che servono per test preliminari all'inizio delle operazioni di lancio dei satelliti che formeranno appunto il Galileo. Al sistema satellitare russo è collegato anche il cane di Vladimir Putin, che porta un collare sul quale è installato un ricevitore GPS e anche un trasmettitore GSM che invia la posizione del cane ad intervalli regolari. Se il cane, ad esempio, esce da una determinata area o si allontana oltre una certa distanza dal padrone, possono essere attivati degli allarmi. Nulla di stupefacente, questa non è una grande novità, insomma, perché sistemi di questo tipo esistono da tempo in tutto il mondo. Forse alcuni ricorderanno che a 2024 ne abbiamo parlato circa un paio di anni fa e anche lo scorso anno in occasione della presentazione di UbiSafe, un sistema realizzato da UbiEst, un'azienda italiana che ha realizzato un sistema basato proprio per tenere d'occhio cose, animali o anche persone, se si vuole, sfruttando GPS e rete di telefonia cellulare. Nei prossimi anni vedremo sempre più spesso oggetti capaci di collegarsi ad internet tramite la rete di telefonia mobile e che integrano una SIM dati, una tessera simile a quella che abbiamo nel nostro telefono, ma che è legata solo al servizio per la quale è nata. La differenza è che nel caso del nostro telefono noi conosciamo l'operatore che ha emesso quella SIM, sappiamo la tariffa che ci viene applicata, ad esempio. La particolarità dei sistemi di cui vorrei parlare tra poco è che noi paghiamo il servizio con un abbonamento, ma non sappiamo nulla della connessione dati o dell'operatore utilizzato. Un esempio di questo tipo è il Kindle, il lettore di libri digitali di Amazon. Dicevo che il Kindle di Amazon è un esempio di un sistema che sfrutta per collegarsi ad internet la rete di telefonia mobile, ma noi non lo sappiamo. Siamo abituati spesso a difficili operazioni per connetterci con i nostri strumenti, a parte il computer, quando le cose vanno bene riusciamo a connetterci in maniera veloce, però a volte con strumenti diversi, con il telefonino o altri strumenti che richiedono una connessione ad internet, beh, in alcuni casi dobbiamo fare dei settaggi particolarmente difficili o comunque ci dobbiamo preoccupare di avere un abbonamento dati o di controllare quanti dati e quanto stiamo spendendo per la nostra connessione. Ecco, nei prossimi anni vedremo sempre più spesso strumenti che si devono connettere alla rete internet, che scaricano dati alla rete internet, ma sui quali noi di fatto non sappiamo nulla dei parametri di connessione, non sappiamo nemmeno nulla dei costi, perché il costo è compreso in altro, o in un abbonamento o nel costo di un servizio che paghiamo di volta in volta. Questo è uno degli esempi, è il Kindle, il lettore di libri digitali di Amazon. Ecco che cosa ci ha detto Steve Kessel, che è Senior Vice President per l'area Digital Media di Amazon. Kindle is Amazon's wireless reading device. Kindle è lo strumento di lettura senza fili di Amazon. Ha un display con inchiostro elettronico, il che significa che è come leggere sulla carta, quindi è molto diverso dallo schermo di un computer. Poi è senza fili e si collega alla stessa rete utilizzata dal vostro cellulare. Si connette al negozio di libri Kindle da ogni luogo dove funziona il vostro telefonino. Lei pensi ad un libro e lo potrà avere in meno di 60 secondi. Think of a book and be reading it in less than 60 seconds. Devo quindi preoccuparmi dei costi per collegarmi alla rete internet tramite il network di telefonia cellulare o anche dei settaggi? With Kindle, Amazon manages all that for you. Con il Kindle è Amazon che gestisce tutto questo al suo posto. Non c'è alcun contratto con un operatore di telefonia mobile, nessun costo mensile né spese di roaming. L'unica cosa che lei deve fare è collegarsi con il negozio online, ovunque lei sia, in oltre 100 paesi del mondo, comprare il libro e scaricarlo in meno di 60 secondi. E nessun altro costo. There are no other charges. E quindi il costo del traffico dati è incluso nel costo del libro. Amazon ha fatto un accordo globale con AT&T, che pensa poi a fare gli accordi di roaming locale in ogni paese. Grazie alle vendite, questa è una notizia di pochi giorni fa, grazie alle vendite di Natale, Kindle è il prodotto più venduto nella storia di Amazon. Lo ha annunciato proprio il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, specificando che il picco si è registrato il 14 dicembre, ma c'è un'altra notizia, cioè nel giorno di Natale sono stati venduti da Amazon più libri digitali che cartacei, e questa è una svolta. Certo, un solo giorno, però probabilmente saranno persone che hanno ricevuto il Kindle in regalo, che quindi il giorno di Natale hanno scaricato un libro digitale, quindi più file che libri tradizionali. Amazon in totale durante le festività natalizie ha spedito il Kindle in 178 paesi del mondo. Un altro esempio di oggetto che integra una SIM che si collega al network di telefonia mobile, ma il cui traffico dati è incluso in questo caso in un abbonamento, nel caso del Kindle nel costo che noi paghiamo per un libro, in quest'altro caso che vorremmo raccontarvi in un abbonamento, dicevo, quest'altro servizio, quest'altro esempio si chiama Coyote, un nome simpatico, poi vi spieghiamo di che cosa si tratta. È un prodotto nuovo, meno noto naturalmente rispetto al Kindle, che serve sostanzialmente per sapere dove sono gli autovelox nelle strade italiane ed europee e per sapere qual è la nostra nostra velocità media all'interno dei tratti autostradali coperti dal sistema Tutor. Insomma, un sistema per non prendere la multa, quindi un sistema dedicato agli automobilisti. Saluto Marco Federzoni, che all'interno di Magneti Marelli si occupa del Coyote, responsabile vendite di Coyote. Benvenuto 2024. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Che tipo di informazioni vengono fornite? Delle informazioni di vario tipo in funzione della tipologia di strade su cui siamo. In particolare l'Italia è l'unica ad avere il sistema Tutor, di cui credo si sia parlato abbastanza. Se ne parla molto, ma se ne sa ancora non tutto. Ci sono sempre delle cose non ben chiare, come funziona e quant'altro. Con Magneti Marelli abbiamo studiato anche il sistema, perché ovviamente l'applicazione è stata sviluppata appositamente per l'Italia. Non c'è in Francia, non ci sono negli altri paesini in Europa, lo stiamo esportando noi adesso. Che cosa avviene? Il Coyote, collegandosi a internet, avendo un database di tutte le porte del Tutor, quindi i cancelli, si chiamano cancelli, i punti in cui vengono... Ci sono le telecamere in cui... Le telecamere, sì. Il punto in cui si passa con la macchina sotto il Tutor sono i cancelli. Abbiamo creato un database geolocalizzando tutti i cancelli, e a quel punto quando il Coyote all'interno della macchina passa sotto un cancello, comincia a calcolare la velocità effettiva, ma anche la velocità media, che è fondamentale per il Tutor, e quindi in ogni momento si ha la velocità media di percorrenza del tratto, perché in realtà il Tutor ci calcola la velocità media tra cancello e cancello. Se noi andiamo da Milano a Venezia, non calcola la velocità media da Milano a Venezia, come qualcuno magari può ancora pensare, ma ci saranno una decina di cancelli di svariati chilometri, 8, 10, 5 chilometri, e all'interno di quei tratti viene calcolata la velocità media. Si esce da quel tratto, si ricomincia a ricalcolare la velocità media ad ogni tratto. Abbiamo detto che questa scatoletta, che è molto semplice, ci sono ben pochi tasti, poi affrontiamo anche il problema dei tasti, ci fornisce la velocità media all'interno dei cancelli del tutto, per sapere a che tipo di velocità stiamo andando, ci fornisce un'informazione sugli autovelox, perché anche questo è un altro aspetto delle informazioni che ci vengono restituite, i database con tutte queste informazioni, chi ce li ha? Perché per mappare tutti i tutor che sono sulle autostrade italiane, tutti gli autovelox che sono sulle strade italiane, il lavoro sicuramente è molto ingente. È ingente, parola giusta. È un lavoro che è stato fatto dalla Coyote in Francia e che continua a essere sviluppato costantemente, quotidianamente, da un gruppo di lavoro di Magneti Marelli, che raccoglie i dati sia dai francesi che da altri fornitori europei di database sui punti di interesse, i famosi POI che ci sono anche per i navigatori, e tutti questi dati vengono integrati su un unico database che risiede sul server di Coyote in Francia. Ogni singolo Coyote fa riferimento a questo server in Francia con i dati aggiornati quotidianamente. E voi potete garantire che ci sono tutti gli autovelox e tutti i tutor d'Italia? Non mi potrei mai permettere di garantire il 100%. Possiamo garantire che ce n'è la stragrande maggioranza, in una percentuale elevatissima, ma possiamo garantire assolutamente che l'aggiornamento è quotidiano, quindi quello che possiamo garantire è che ogni autovelox che viene aggiunto sarà aggiunto, e anche quelli che vengono tolti. Abbiamo casi in cui gli autovelox semaforici vengono tolti, facciamo anche quel lavoro di aggiornamento puro. C'è un altro aspetto, l'aggiornamento di questo database può essere fatto anche dall'automobilista. Esattamente, in realtà chi acquista il Coyote entra a far parte di una community, la community Coyote. La community Coyote non è è una community su due livelli, quella in auto e quella su internet, che si integrano perfettamente in questo caso. E quindi diventa uno strumento internet 2.0, perché comunicando una postazione mobile, cosa che si può fare in modo molto semplice con il Coyote, perché ci sono solo due tasti, basta schiacciare il tasto destro per una postazione mobile che vediamo la nostra destra e il tasto sinistro per una postazione mobile che vediamo la nostra sinistra, e automaticamente questa postazione mobile viene mandata al server in Francia, viene rielaborato il dato immediatamente, non la notte o il giorno dopo, immediatamente, e tutti i possessori di Coyote, dopo pochi secondi, sono in grado di sapere che c'è una postazione mobile in quel luogo. Certo, se invece quell'autovelox è già nel database, mi viene segnalato, quindi è inutile che io faccia la segnalazione. Certo. In quel caso si sta parlando di autovelox fissi e quindi la segnalazione è già non serve farla. Ecco. Questo è uno strumento che si connette alla rete di telefonia mobile. Esiste un tipo di abbonamento a questo per avere questa connessione? Ecco, allora tocchiamo anche questo aspetto. Quanto costa il Coyote, ma soprattutto quanto costa l'abbonamento che ci permette di avere questa connessione e anche tutti i dati che vengono scaricati sul Coyote? Allora, andiamo in ordine. Ti dico quanto costa il Coyote. Il costo è di 199 euro, IVA inclusa. Ti dico questo per primo perché all'interno di questo costo sono previsti già 8 mesi di abbonamento, in particolare 7 mesi di abbonamento più un mese che si riceve gratuitamente all'iscrizione, alla registrazione in internet. L'abbonamento successivo a questi 8 mesi è di 12 euro al mese. Mi tengo a specificare, visto che me l'hai chiesto in modo così puntuale, che l'abbonamento non significa solo l'abbonamento al servizio di connessione, perché in realtà il costo di questo abbonamento è il costo del servizio. Come dicevamo prima, c'è molto lavoro dietro, ci sono un gruppo di lavoro in Italia e in Francia che aggiorna costantemente, quindi non dobbiamo pensare che i costi siano riferiti alla connessione. La connessione è solo una piccolissima parte di questo costo, è il servizio costante che dà valore aggiunto al prodotto. Un ascoltatore potrebbe obiettare e dire: beh, gli autovelox sono disponibili anche su i navigatori satellitari, certo non il servizio che viene fatto per la velocità media all'interno dei tutor. È questo il valore aggiunto che voi ritenete ci sia nel Coyote? Il valore aggiunto non è solamente questo, è sicuramente anche questo, perché calcolare la velocità media tra un cancello e l'altro senza uno strumento come il Coyote è praticamente impossibile, o comunque sarebbe possibile. Diciamo che adesso non è disponibile. Non è disponibile. Certamente il valore aggiunto però è anche quello dell'aggiornamento costante e quotidiano. Quando mi viene fatta questa precisazione, dico sempre: certo, se un utente è dedicato a tornare a casa tutte le sere, collegarsi a internet, andare a cercare sui 4-5 database diversi, scaricare tutti i servizi e farlo tutti i giorni costantemente, potrebbe avere una cosa simile a quello che diamo noi. Certo è che se una sera torni a casa tardi e non lo fai, il mattino dopo prendi la multa, l'hai fatto per 6 mesi, hai lavorato per niente per 6 mesi, hai dedicato tanto tempo, ma basta una sola volta. E noi, siccome lo facciamo per mestiere, lo facciamo tutti i giorni. Natale, visto che siamo vicini, è Capodanno. Ebbene, allora grazie a Marco Federzoni per essere stato con noi, per averci raccontato queste novità di questo simpatico aggeggio chiamato Coyote. Adesso noi continuiamo e parliamo della diffusione di internet sulle automobili. Abbiamo detto che si sta cercando di diffondere e di mettere a disposizione degli utenti internet a bordo dei mezzi di trasporto. Sugli aerei c'è qualche sperimentazione, ancora molto poco. Sui treni ci sono alcuni servizi che creano hotspot wifi all'interno delle carrozze e quindi rendono la navigazione molto più fluida rispetto a quella che si può fare con una chiavetta attaccata al computer e connessa alla rete di telefonia mobile, meglio se 3G, ma un po' complicata soprattutto se ci si trova in montagna o sotto le gallerie. Si sta cercando di fare qualcosa e già esiste qualche cosa per le navi e anche per le automobili. Naturalmente ci sono tutta una serie di cose da tenere in considerazione, non ultimo il fatto, ma di questo parleremo tra poco, che normalmente in automobile c'è un pilota che deve occuparsi di altro, mentre se siamo in aereo o in treno o su un altro mezzo di trasporto siamo molto più tranquilli e possiamo distrarci con tante altre cose. Ne vogliamo parlare e per questo saluto Roberto Roberti, che è responsabile di tutto quello che va sotto il nome Telematics, quindi la telematica all'interno di Magneti Marelli. Benvenuto 2024. Grazie. Io ho detto che oggi vogliamo cercare di capire quando internet arriverà sulle automobili. Beh, probabilmente internet così come lo conosciamo oggi, cioè nell'esperienza che facciamo con il nostro computer, arriverà tra molti anni. Forse c'è un passaggio di mezzo che vedremo presto. Voi state lavorando a che tipo di piattaforme per portare che tipo di servizi e quindi che tipo di internet? Beh, come ha detto giustamente lei, quando parliamo di internet oggi ci riferiamo alla nostra esperienza quotidiana, quindi immaginiamo un laptop, immaginiamo una tastiera ed immaginiamo una connessione fissa oppure mobile quando siamo fuori di casa. Quando parliamo di automobile il discorso cambia, perché deve essere molto chiaro che stiamo parlando di una situazione dove c'è un automobilista che deve fare altre cose rispetto al navigare su internet, quindi deve guidare come sua prima attività e quindi la dinamica cambia completamente. Poi abbiamo dei passeggeri che non sono sempre presenti in auto, perché i passeggeri sono presenti nel 20% dell'esperienza automobilistica. Ma nell'80% siamo soli, quindi quello che sta facendo Magneti Marelli oggi in questo campo è quello di studiare le piattaforme del futuro per le applicazioni internet in auto, partendo da questo presupposto e con una grande attenzione alla sicurezza di guida dell'automobilista e dei suoi passeggeri. Ecco, diciamo una cosa importante: noi stiamo parlando di sistemi integrati e questa è una parola chiave, perché naturalmente se io sto guidando, ho bisogno di internet, posso fermarmi, usare il mio smartphone oppure il mio computer portatile e collegarmi ad internet laddove la connessione è presente e me lo permette. Quello che si cerca di fare è integrare internet e i servizi che internet può veicolare all'interno dell'automobile, giusto? Giusto, ed è quello che si sta cercando di fare, è quello di renderli fruibili in maniera semplice e con un'interfaccia uomo-macchina il più semplice possibile e il più facilmente fruibile per l'automobilista nell'esperienza di guida. Ecco, un'altra cosa che forse è bene dire, che oggi su alcune automobili di grossa cilindrata, molto costose, qualche esempio già lo vediamo, però qua si tratta di capire quando internet sarà rapportata di tutti, cioè dell'utilitaria. Immagino che quello sia un po' l'obiettivo vostro. Sì, l'obiettivo nostro è anche quello, è quello di rendere internet all'interno dell'auto un'esperienza popolare, quindi alla portata di tutti. Evidentemente un problema di costi, quindi legati alla tecnologia attualmente esistente, di costi sia di piattaforma e di costi anche di trasmissione dati. Quando parliamo di internet all'interno delle automobili, di che tipo di internet stiamo parlando? Cioè a che tipo di servizi state pensando? Allora, quando parliamo di internet automobile, come ho detto prima, dobbiamo tenere sempre separate il guidatore dai passeggeri. Allora, per quanto riguarda il guidatore, evidentemente cercheremo di rendere fruibili dei servizi, tanto per cominciare, semplici da utilizzare, ad alto valore aggiunto e, come ha detto giustamente prima, a basso costo di fruizione. Io sto pensando ad esempio al servizio Autovelox, i prezzi dei carburanti in tempo reale. Sarebbe molto utile disporre dei prezzi dei carburanti della stazione di servizio più vicina con il prezzo più basso. Oggi la tecnologia lo consente. I parcheggi liberi. Oggi siamo abituati sul nostro navigatore a vedere delle zone di parcheggio, ma non sappiamo se sono libere o se sono occupate. I parcheggi possono essere visualizzati, i parcheggi liberi. Il traffico, questo è un altro elemento che può passare attraverso la rete in maniera veloce ed efficace. Quindi un altro servizio che possiamo rendere disponibile è il servizio traffico, che mi permette di cambiare strada o di comportarmi in maniera diversamente se trovo un ingorgo. Naturalmente una delle domande che ci si fa è: come verranno resi disponibili questi servizi? Attraverso pacchetti, attraverso abbonamenti, pagati dalla pubblicità che potrebbe essere ascoltata in automobile prima, che ne so, di sentire le notizie sul traffico pensate proprio per quell'automobile, per quell'automobilista? Chi lo sa? Stiamo parlando dei servizi erogati via internet, ma che arriveranno presto nelle automobili, e per automobili parliamo di tutte le automobili, anche le utilitarie. E stiamo parlando con Roberto Roberti di Magneti Marelli. Tra poco parleremo anche di un altro servizio che è stato lanciato da poco dall'azienda, si chiama Coyote, un piccolo strumento che non è integrato nell'automobile ma si acquista a parte, che serve per tracciare e tenere nota di tutti gli autovelox e ci avvisa degli autovelox, ma soprattutto ci controlla la velocità, la nostra velocità media all'interno delle porte dei tutor sulle autostrade italiane. Roberti, ci faccia capire in che modo verranno erogati questi servizi? State pensando a una piattaforma, un pacchetto tutto incluso? In che modo? Sì, per questo Magneti Marelli già circa un anno e mezzo fa ha fatto un accordo con Telecom Italia e ha creato un consorzio che si chiama Tema Mobility e che ha proprio lo scopo di rendere disponibili le piattaforme internet per dare la possibilità di fruire di questi servizi nel mondo dell'automotive e mettere a disposizione anche il traffico dati al migliore costo possibile. Sì, un'altra cosa importante ed interessante è capire che tipo di connessioni verranno utilizzate. Allora, la tecnologia che vogliamo utilizzare, che abbiamo già di fatto utilizzato in un'applicazione che non è integrata in auto ma che è accessorio, che si chiama EasyRoad 3G, è la tecnologia 3G, come dice il nome stesso del prodotto, che è una tecnologia HSDPA che porta a una portanza di circa 7,2 megabit. Questa tecnologia deve essere affiancata dalla tecnologia GPRS perché la tecnologia 3G è una tecnologia molto potente ma ha dei buchi e quindi la tecnologia GPRS, che è una tecnologia meno potente ma entra in gioco quando non è presente la tecnologia 3G. Questa è una tecnologia che anche in movimento permette di fruire dei servizi internet. Senta, voi state pensando ad una serie di servizi che verranno erogati magari in accordo con la casa che produce l'automobile all'interno di un pacchetto, magari io mi abbono a quel pacchetto e ricevo tutti questi servizi, posso utilizzare questi servizi, quindi non mi preoccupo della connessione ad internet, non devo avere un abbonamento ad un gestore di telefonia, oppure quale tipo di modello vedremo? Quello che noi abbiamo in mente e che abbiamo già fatto di nuovo nel caso del prodotto Magneti Marelli EasyRoad 3G è quello di fornire dei pacchetti molto chiari, con dei prezzi molto chiari. Quindi tutto incluso? Tutto incluso, con dei prezzi che possano permettere di fruire di questi servizi ad un costo ragionevole. Questa è la nostra strategia. Senta Roberti, fino adesso abbiamo parlato di servizi che molto probabilmente vedremo nell'immediato, nei prossimi mesi o anni. Voglio dire, sono servizi che possiamo, come ho detto prima, alcuni servizi sono già disponibili oggi. Però non integrati. I servizi integrati in vettura, allora il fatto di vederli sul mercato dipende dai tempi di messa sul mercato dei veicoli. Evidentemente tutta la tecnologia che è studiata per un'autovettura ha i tempi di immissione sul mercato che sono i tempi di sviluppo del veicolo. Quindi oggi, per come sta avanzando la tecnologia in questo momento, possiamo parlare di un paio d'anni. Ecco, dicevamo, adesso abbiamo parlato di dati che verranno messi a disposizione del guidatore. Per i passeggeri che hanno un sacco di tempo e allora potrebbero scegliere di avere un computer portatile sulle proprie gambe, seduti in automobile e con una chiavetta oppure addirittura con un modulo integrato nel portatile connettersi alla rete 3G tranquillamente. Ecco, l'automobile che cosa cercherà di proporre ai passeggeri? Ecco, come ho già accennato prima, quando parliamo dei passeggeri abbiamo più libertà d'azione, perché i passeggeri evidentemente non devono, non hanno l'obbligo di condurre il veicolo o di prestare attenzione ai pericoli della strada. Quindi quello che si può immaginare è quello di fruire dei servizi anche visivi, quindi la possibilità di vedere dei video attraverso gli schermi inseriti nei poggiatesta, oppure addirittura avere un computer sulle proprie ginocchia ed avere una piccola rete wifi all'interno della vettura per fruire dei servizi, di tutti i servizi di internet. Ok, quindi diciamo da questo punto di vista la fruizione è molto più simile a quella che io ho col mio computer. Esatto, proprio perché non c'è il vincolo legato al fatto che il conducente invece sia impegnato in un'attività molto importante, che è quella della guida. Senta, quando parliamo di questi servizi, io prima ho detto oggi alcune cose sono già disponibili su auto di un certo tipo, come optional molto, molto costoso. Voi pensate che questo tipo di servizi possa essere messo a disposizione proprio dell'utilitaria nel giro di pochi anni? Sicuramente sì, perché la tecnologia è una tecnologia anche nel campo dell'automotive che vede strumenti sempre più performanti a costi sempre più bassi, quindi sicuramente siamo sicuri che la tecnologia ci consentirà di rendere molto più popolari le applicazioni di internet anche all'interno dell'automobile. Bene, io ringrazio Roberto Roberti di Magneti Marelli per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie mille. È tutto per questa puntata di 2024. Un paio di note per l'agenda della prossima settimana. Martedì Google farà un annuncio che riguarda il mondo della telefonia mobile, cioè chi si aspetta l'annuncio del primo telefono marchiato Google. Quindi non solo un telefono con sistema operativo Android, quindi uno smartphone, ma un vero e proprio terminale con il logo della grande G. Sempre questa settimana, giovedì, inizia a Las Vegas il Consumer Electronics Show, il più importante appuntamento mondiale per l'elettronica di consumo. Tutti gli annunci e le tendenze del mercato con i nostri inviati nella puntata di 2024 del prossimo sabato 9 gennaio. Infine, per il 26 di questo mese è previsto un annuncio di Apple che potrebbe svelare il tanto atteso e discusso tablet, una sorta di tavoletta con schermo da 10 pollici, metà computer, metà cellulare e chissà cos'altro. Abbiamo tempo per riparlarne. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie per averci ascoltato, ancora auguri per un ottimo 2010, ci trovate anche su internet, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.